Pubblicato sulla rivista Contemporaneamente Versi, direttore editoriale Luca Giambonino, una nuova poesia della poetessa Concetta Padula dal titolo Tra cielo e terra. Scruto l'orizzonte e con lo sguardo cerco d'abbattere infiniti ponti, ponti fatti di sassi e mattoni, di abiti sdrucciti senza bottoni. Il ponte mi salva dall'abisso e mi riconduce all'altissimo. Vivo in una casa senza tegole, conduco una vita senza regole, cerco quel ponte che esclude fame e guerra, cerco quel ponte che unisce cielo e terra.